picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. Il settimanale di montagna di Radio Onda d'Urto. Anteprima di picchi di frequenza, questa settimana il venerdì alle 20, mentre saremo in onda con la puntata 31, va in scena Milano Iniziativa su Valetti. Ricordiamo tutti Coppi, ricordiamo tutti Bartali, Valetti è il nostro campione dimenticato, quindi si parla di ciclismo e nell'anteprima andremo a conoscere il regista del film che verrà proiettato. Siamo al telefono quest'oggi con Gabriele Monaco. Gabriele è uno degli scrittori di un film, il titolo è Valetti, il campione dimenticato. Ciascuno di noi ricorda le foto con lo scambio della borraccia tra Coppi e Bartali, in pochi invece ricordano di Valetti. E visto che proprio questa settimana, a cavallo tra Bici e Radici, il negozio di Piazza Morbegno, e il Cinema Beltrade, nello specifico venerdì 6 maggio, c'è una presentazione di questo film, che poi non è soltanto una presentazione, chiedo a Gabriele di raccontarci qualcosa. Ciao a tutti e a tutti. Sì, presentiamo il film al Cinema Beltrade questo venerdì alle 8. È stato un lavoro che abbiamo realizzato nel 2013 come in occasione del centenario della nascita di Valetti, che è stato uno dei campioni più forti prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, di cui nessuno sapeva niente. Soprattutto ci è sembrato particolare, visto che noi veniamo dallo stesso paese dove è nato e nessuno sapeva neanche della sua esistenza nel nostro paese, quindi abbiamo colto l'occasione per raccontare una storia particolare. E si sente dall'accento, peraltro, che il paese è lo stesso. Senti, volevo chiederti, raccontaci un attimo qual è il programma di questa giornata. Prima accennavo non soltanto una presentazione. Che cosa accade a Bici Radici a partire dalle ore 19? A Bici Radici facciamo classica tappa ristoro anni 30, quindi una tappa con uova sode, salame, vino e pane, come si facevano all'epoca i ciclisti, e cogliamo anche l'occasione per fare due parole sul film, sul ciclismo degli anni 30, esponendo un po' di immagini, foto di Valetti, foto dei ciclisti di quel periodo, alcuni giornali che raccontano anche il peso che aveva il ciclismo nell'opinione pubblica, nel cuore degli italiani in quegli anni. E sì, probabilmente ci saranno anche alcune bici d'epoca esposte da Bici Radici, che fanno vedere quanto duro potesse essere salire le montagne in quelle condizioni. Perfetto, invece per quanto riguarda il film, se lo ricordo, a partire dalle ore 20, che tipo di lavoro avete fatto? È un film che procede in maniera cronologica, per immagini, per video d'epoca, per interviste, testimonianze, insomma, che cosa c'è dietro la copertina? È un po' tutto quello che hai detto, in realtà, perché in realtà la struttura narrativa è proprio è cronologica, segue la carriera di Valetti dai suoi esordi, che praticamente sono nel 33, nel 36 poi come professionista, fino al 40, che è l'anno della crisi, passando per i due anni fondamentali, il 38 e il 39, che sono gli anni in cui vince il Giro d'Italia, e nel 39 soprattutto batte Bartali in un modo abbastanza rocambolesco, con un finale al cardiopalma sulle Dolomiti. Ed è un lavoro che abbiamo fatto un po' di interviste sia ai giornalisti che ai familiari che a esperti di ciclismo. Il nostro grosso limite è stato avere unicamente una quindicina di secondi a disposizione su Valetti video, quindi abbiamo recuperato foto, abbiamo recuperato giornali e abbiamo fatto alcune illustrazioni che potessero raccontare alcune vicende che ci hanno narrato, sono narrate nei libri, nelle interviste che fece poi successivamente. E voilà, quindi un grosso lavoro sull'archivio, è un periodo anche piuttosto strano per la storia d'Italia, perché finita la seconda guerra mondiale, gli anni 30 sono stati veramente cancellati dalla memoria, c'era una vergogna piuttosto forte nei confronti di tutto quello che era successo, per cui gli stessi archivi video sono ridotti all'osso. È stato un lavoro abbastanza complicato ricostruire la vicenda. Ecco, riesterei un attimo su questo argomento prima di chiudere, perché tutti sanno, come dire, del sorpasso Bartali sul passo del Tonale, nessuno sa della vicenda personale di Valetti, quindi senza fare grandi spoiler, però insomma andando a cercare anche la maniera più banale su Wikipedia qualcosa su quello che accade dopo la sua carriera ciclistica, i due giri d'Italia, c'è una frase laconica: nel dopoguerra lavorò alla Fiat, punto. Volevo Esatto. chiederti, senza bruciarci il finale, se all'interno di questa ricerca eravate effettivamente riusciti a scoprire, oppure se questo alone di mistero resta, come dire, in sottotrama uno degli architravi del film. Allora, a quella frase potremmo aggiungere che fece il camionista, che fece il guardiano notturno e fece il carpentiere, poco di più, proprio è stato uno che si è autoesiliato dal mondo del ciclismo, non solo, proprio non ha, burbero, scontroso, con pessimi rapporti con la stampa, è stato completamente dimenticato, volutamente, probabilmente per il suo carattere, e anche lui non ha fatto nulla per farsi ricordare, e poi è tornato esattamente laddove era partito, insomma, come operaio in fabbrica, in catena, operaio semplice, lì ha finito la sua, è arrivato fino alla pensione. Perfetto, ci sta già simpatico. Quindi, con questo venerdì 6 maggio, il film su Valetti. Grazie Gabriele. Appuntamento alle ore Grazie 19 a Bici Radici, alle ore 20 al Cinema Beltrade. Ciao, grazie. a voi. Grazie, ciao ciao. L'anteprima di Picchi di Frequenza volge al termine. Noi ci risentiamo questo venerdì in diretta alle ore 20 sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto, tutta la settimana cercando Picchi di Frequenza sul profilo Spreaker, dove potete trovare l'archivio pubblico delle prime, sino ad ora, 30 puntate della nostra trasmissione. A venerdì.